Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, continueremo chiaramente a tenere d'occhio quello che sta capitando sulle banche e in particolar modo sul Monte dei Paschi. Va detto che oggi il titolo ha tentato un rimbalzo con quello che ha perso in questi giorni, solo di rimbalzo si può parlare, rimbalzo però significativo intorno al 10%, adesso ha ridotto il recupero parzialissimo al 6,37%, continua ad andare bene invece Yux Net a Porté più 2,44, Intesa più 1,13. È come se fosse una staffetta tragica, lo dico, non c'è nulla di divertente, quella dei titoli bancari in borsa, perché oggi il testimone negativo viene lasciato al Banco Popolare, che perde il 12% a 1,76 come ultimo prezzo. Aveva aperto diciamo a 1,08 euro, il riferimento precedente era 2 euro. Telecom Italia va molto male e qui le banche c'entrano poco, perde l'11,36% in questo momento. Da questo punto di vista devo dire che il Banco Popolare non è solo, tutte le popolari oggi sono di nuovo in difficoltà, la BPER Popolare Emilia Romagna perde 7,80, la Pop Milano 3,80, però su Telecom pesa soprattutto l'ipotesi che l'imprenditore francese Neil nelle prossime settimane possa vendere il 15% della società. Chi invece si avvantaggia di battaglie per conquistare, diciamo, il titolo è RCS, Rizzoli Corriere della Sera, che anche oggi si muoveva bene. Per quello che riguarda invece i titoli bancari, segnalo anche il calo molto pesante del Credito Valtellinese, che perde il 12,20%. Tra gli altri titoli, cali più contenuti per Generali, meno 3,20. Chiaro che tutto è relativo. In altre giornate di borsa, in altri mondi, in altri momenti, avremmo detto che un calo del 3% era un calo significativo. Adesso, con queste giornate, diciamo che un calo più contenuto. Tutto è relativo, meno 3% Generali, meno 3,20 UbiBanca, meno 3% Unicredit, meno 3% anche Mediaset, meno 2,70 Unipol, SAI e Campari, il 2,5% lo perdono CNH e Buzzi Unicem. Quanto perde complessivamente Milano? Il 2%, ed è a 15.400 punti, ed è, dicevo, la borsa più negativa, anche se Parigi è quasi simile, meno 1,90%, Francoforte meno 1,80%, Londra 1,5% di calo, euro in indebolimento sul dollaro a quota 1,10. Parleremo quindi anche di banche, chiaramente, e di decisioni europee subito in apertura, poi del TTIP, c'è infatti un po' di maretta sui trattati commerciali, quelli che dovrebbero portare, secondo chi li sostiene, a dei vantaggi forti nello scambio commerciale atlantico. Non ci sono solo gli Stati Uniti, c'è anche il Canada. Infatti ieri la Commissione europea ha proposto che l'accordo di libero scambio tra Canada e i Paesi membri venga sottoposto alla ratifica anche dei parlamenti nazionali. Questo perché alcuni Stati membri non erano d'accordo. La mancata ratifica di un solo Parlamento farà decadere l'accordo. Qui ci sono anche elementi d'attrito, perché è chiaro che l'interesse che può avere un paese come l'Italia o la Francia nei confronti dell'export e dell'interscambio commerciale col Canada, che per inciso è un grossissimo importatore, per esempio, di agroalimentare e vitivinicolo italiano, è diverso da quello che possono avere piccoli paesi, con massimo rispetto magari del Nord Europa, che con il Canada hanno un interscambio pari a zero. Ora, che un paese possa porre il veto in questo modo, al di là del peso politico e anche economico in Europa, è abbastanza singolare. E poi ci sono gli elementi di attrito veri e propri. L'Europa vuole conservare la DOC sui prodotti agroalimentari, non vuole rinunciare ai propri standard di tutela dei consumatori. Gli Stati Uniti, qui andiamo più sul TTIP, invece non vogliono uniformare le regole dei mercati finanziari, e non vogliono rinunciare all'obbligo per le aziende finanziate con soldi pubblici di dare la preferenza ai prodotti made in USA. E poi la segretezza in cui si svolgono molte trattative, quindi che è un altro elemento di critica. L'istituzione del ISDS, che è un meccanismo di risoluzione delle controversie fra Stato e imprese, che potrebbe avere degli effetti paradossali, cioè bypassare anche decisioni di carattere nazionale, essendo un organismo sovranazionale, magari anche un voto referendario contrario a OGM o al nucleare potrebbe essere bypassato. Lo cito come esempio perché era l'esempio oggi presente anche sul Sole 24 Ore. Anche di questo parleremo, e chiaramente, lo dico prima che mi scriviate, anche delle indagini che coinvolgono l'Expo, la gestione dell'Expo, la Fiera di Milano. Avremo un approfondimento su questo. 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, in apertura torniamo sulla Brexit. Ripeto, viste le accuse di ieri, purtroppo la Brexit sta avendo solo effetti negativi, e li sta avendo al momento. Poi, se fra 3 anni la Gran Bretagna sarà il miglior posto dove vivere, con un'economia in rapida crescita, saremo qua, ci auguriamo, a testimoniarlo. Ma in questo momento gli effetti negativi sono in Gran Bretagna in primo luogo: distruzione della classe dei vertici politici di tutti i partiti, ma adesso arriviamo a quelli economici, e negativi anche nel resto d'Europa, perché l'incertezza causata dalla Brexit si è scaricata in un facile gioco di domino sulle banche italiane e spagnole, ma non solo, anche alcune banche tedesche e inglesi. La sterlina è tornata a un nuovo minimo dal 1985, ha poi nei confronti del dollaro sotto addirittura 1,28 dollari, poi ha recuperato a 1,2984, comunque sempre sotto la soglia critica del 1,30. Il mercato è ancora scosso dal congelamento degli investimenti, quindi del poter ripagare le quote nei 3 fondi immobiliari, di cui uno è gestito da MG, l'altro è Avive e Standard Life. Il totale è di parecchi miliardi, abbiamo fatto il conto ieri, siamo intorno agli 8, tra i 7 e gli 8 miliardi. Però quello che preoccupa non è solo il fatto che i 3 fondi immobiliari abbiano bloccato i rimborsi, ma è che li hanno bloccati a fronte di una corsa a chiedere il rimborso da parte dei clienti. Perché lo dico? Perché se inizia la fuga dal mercato immobiliare britannico, non è un mistero per nessuno che quello è in Gran Bretagna uno dei pilastri dell'economia, anche perché spesso i britannici hanno mutui molto più alti rispetto al valore dell'immobile di quanto non vi siano in Italia. Tant'è che oggi la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, dice che sta monitorando gli sviluppi. Nessuno può immaginare lo shock che potrà arrivare dalla Brexit, ma che la Brexit sia un gioco a somma negativa è la convinzione di BlackRock, che è un principale fondo investimenti. Lo ha sottolineato Bruno Rovelli, che è il responsabile di BlackRock Italia. Ha detto: la Brexit avrà nessuno ci guadagnerà, sarà un gioco a somma negativa, tutti andranno a perdere. Potrebbe arrivarsi uno shock regionale, agirà in modo significativo sulla crescita economica nel Regno Unito, e c'è un'alta probabilità che la Gran Bretagna, che era l'economia più sana quanto a crescita economica, entri in recessione nei prossimi 12-18 mesi, mentre il rallentamento che si potrebbe produrre in Europa, nell'area euro, non dovrebbe portare però a una recessione nell'area euro stessa. Oggi di Brexit ha parlato anche il ministro delle finanze tedesco Schäuble, il quale ha detto: non abbiamo intenzione di iniziare sulle tasse una corsa al ribasso con Londra. Questo perché si riferiva alla proposta di tagliare la corporate tax di oltre 5 punti percentuali e la tassa sugli utili delle imprese in Germania di 1 punto percentuale. Schäuble ha parlato anche di Italia, ha detto: l'Italia non vuole eccezioni alle regole sul tema bancario, le regole già in vigore prevedono una certa flessibilità. E comunque con le autorità italiane, questo lo dice invece il neocommissario ai servizi finanziari Valdis Dombrovskis, con le autorità italiane c'è un contatto costante e siamo pronti a intervenire sul settore bancario se sarà necessario. Ancora qualche notizia in breve, poi arriviamo al resto, al tema delle banche e dell'Europa. Per quello che darò anche le percentuali di quanto sono calate le banche italiane da inizio anno e da dopo Brexit. Il vice ministro e sottosegretario Baretta esclude però un intervento nelle prossime ore. Faccio notare che per quello che riguarda la Popolare di Vicenza, la Questio SGR, che è la società che gestisce il Fondo Atlante, che a questo punto è il proprietario al 99% della Popolare di Vicenza, ha presentato la lista di consiglieri che proporrà all'Assemblea dei Soci. Il numero di poltrone nel Consiglio di Amministrazione scende da 18 a 11 e l'ammontare complessivo dei compensi viene dimezzato. La lista vede anche la presenza di Gianni Mion alla vicepresidenza Salvatore Bragantini, mentre Francesco Iori viene confermato nel ruolo di amministratore delegato. Questio chiederà anche di avviare, speriamo, la procedura per un'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici della Popolare di Vicenza, quindi Zonin, Sorato, ma non solo. Due dati invece economici sull'Italia. Per quello che riguarda le costruzioni, l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei costruttori, parla di un'occasione mancata, quella del 2016 per l'edilizia, nel senso che la ripresa non sarà una ripresa così significativa, più 0,3% gli investimenti, del tutto insufficienti a creare condizioni di effettiva ripresa, contro un più 1 inizialmente previsto. Sono calati soprattutto gli investimenti in opere pubbliche, solo più 0,4 contro un più 6%. E dice attenzione, perché nel 2017 potremmo andare al decimo anno di crisi. I permessi, tra l'altro, fa notare che i permessi per costruire sono crollati a livello più basso dal 1936, a causa della, appunto, passati da 305.000 del 2005 a soli 54.000 nel 2014, e gli investimenti in nuove abitazioni sono previsti in calo anche nel 2016. E poi oggi la Confesercenti fa una stima di quanto è calato il potere d'acquisto di ogni italiano dall'inizio della crisi, cioè dal 2007. Tra il 2007 e il 2013 il potere d'acquisto di ogni italiano è calato di 2.100 euro, con il picco nei momenti di austerità fiscale, quindi il governo Monti, meno 10%. Sono 118 miliardi di euro complessivamente. Mai, sottolinea la ricerca che è stata fatta con Cereures, prima di allora, nella storia della Repubblica Italiana, il reddito reale delle famiglie era diminuito per un periodo tanto lungo. Ecco perché, vabbè, sembra di raccontare sempre la solita cosa, però se non ripartono gli investimenti pubblici, che invece stanno pure calando, se l'Europa non si dà un piano di investimenti serio, pubblici, investimenti che servono, non cavolate, non ripartiranno mai gli investimenti privati, non ripartiranno mai i consumi, o meglio, con questi tassi saranno, diciamo, così lenti che non ce ne accorgeremo. Almeno festeggia la Lamborghini, che ha oggi annunciato un nuovo record di vendita nei primi sei mesi del 2016. Chiaramente sono 416 auto consegnate in tutto il mondo e non prevalentemente in Italia. Dunque, molti di voi vogliono sapere che cosa pensiamo della Consulta. Non pensiamo nulla, pensiamo che la Consulta ha detto che le pensioni d'oro possono essere toccate, mette anche una parola di tutto, di grande rilievo, la Corte Costituzionale, sul tema famoso dei diritti acquisiti, su cui anche molti ex deputati, parlamentari, senatori hanno inutilmente sprecato retoriche e parole. Intanto sono più che diritti acquisiti, quelli sono, diciamo, diritti e basta. I diritti impropri, se perfino le pensioni d'oro si possono toccare, vorrei capire che ragionamento si può fare sui vitalizi a proposito di diritti acquisiti. Comunque, su quello che ha stabilito ieri la Corte Costituzionale, che ha ritenuto che anche una natura tributaria, un elemento di natura tributaria sulle pensioni d'oro giustificato in via tutto eccezionale della crisi e contingente possa essere accettabile come contributo di solidarietà, e tale contributo rispetterebbe il principio di progressività, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, è comunque sostenibile in quanto applicato solo alle pensioni più elevate, da 14 a 30 volte superiori alle pensioni minime. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Continua a far discutere la decisione con cui ieri la Corte Costituzionale ha salvato il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo superiore a 90.000 euro all'anno. Un contributo che, ricordiamolo, colpisce le pensioni d'oro con un'aliquota crescente che può arrivare fino al 18%, quindi è un prelievo che certamente si fa sentire sui pensionati più ricchi. Contributo di solidarietà che è stato introdotto nel 2014 dal governo dopo che la stessa Corte Costituzionale aveva bocciato, con una sentenza che fece allora molto discutere, un analogo prelievo di solidarietà applicato sempre a queste pensioni molto alte. Peraltro la sentenza di ieri è molto importante proprio perché il precedente giudizio della Corte era stato per l'illegittimità del contributo. Però, leggendo bene il comunicato con cui la Consulta ha anticipato il suo giudizio, certamente poi dovremo vedere con attenzione le motivazioni di una sentenza che di certo sarà molto articolata, sarebbe eccessivo concludere che la Corte ha dato il via libera assoluto a interventi di questo tipo. Anzi, la Corte sembra insistere molto sull'eccezionalità della situazione che ha reso necessaria l'introduzione di questo prelievo extra, e sembra anche sottolineare l'esigenza che misure di questo tipo siano temporanee. Infatti è previsto che il contributo di solidarietà resti in vigore solo fino alla fine del 2016. Quindi la crisi può giustificare la limitazione di un diritto, a patto però che questa limitazione sia temporanea. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, partiamo con le banche e i mercati che stanno chiudendo: Milano meno 2,1, Monte dei Paschi più 6,5, e invece oltre a Telecom che perde l'11%, le banche popolari perdono intorno tra il 6 e il 7%. Vorrei affrontarlo oggi dal punto di vista dell'Europa, perché abbiamo letto di varie dichiarazioni, soprattutto Bonvoskis oggi, ma insomma, mi serve, ho bisogno disperatamente della Mitica, ed ecco in collegamento la Mitica, che per chi non lo sapesse è Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, da molti ascoltatori battezzata la Mitica. Buonasera Adriana. Buonasera, buonasera. Allora, è sempre difficile leggere tra le righe le dichiarazioni dell'Unione Europea, però insomma, in soldoni il tema è questo: l'Europa può o non può permettersi dopo la Brexit uno shock sistemico, e se non può permetterselo è intenzionata a cadere, non tanto l'Europa ma in questo caso la Ceretelli, è intenzionata o no a dare, non dico chiudere un occhio, ma un'applicazione più flessibile delle regole europee? Facciamo una bella cosa, visto che la Ceretelli dobbiamo, ce l'abbiamo? No, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e metto, così anticipo, metto in pubblicità e poi recupero Adriana Ceretelli. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Allora, stiamo cercando di recuperare la Mitica, che è scomparsa, tra virgolette, nei meandri di Bruxelles. Però ascoltiamo intanto Dombrovskis cosa ha detto oggi in tema proprio il commissario europeo di banche italiane. There are of course different ways how it can be addressed. Ci sono sicuramente diversi modi in cui poter intervenire sul settore bancario. Dipende anche dalle richieste che arriveranno concretamente dalle autorità italiane. Siamo consapevoli delle difficoltà attuali. La bassa redditività e le grandi sofferenze hanno messo sotto pressione gli istituti di credito sui mercati, ma questo non è un fenomeno nuovo. Lo stiamo osservando dall'inizio dell'anno e continuiamo a rimanere costantemente in contatto con le autorità italiane per monitorare la situazione e intervenire se necessario. Allora, nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento Lorenzo Codogno, che insegna alla London School of Economics a Londra, è stato ex direttore generale del Ministero del Tesoro italiano. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Dunque, abbiamo sentito poco fa appunto il neo commissario ai servizi finanziari della Commissione europea che ha detto, insomma, siamo pronti a un intervento se necessario. Il sottosegretario Baretta ha detto, per ora non faremo alcun intervento. C'è una grossa pressione oggi su altri, non sul Monte dei Paschi che ha un tentativo di recupero parziale, parzialissimo, ma su per esempio il Banco Popolare perde 6,15, Pop Emilia Romagna 7,14. Devo dire che il presidente di Società Generale Lorenzo Benismanghi ha detto che se non si accetta che siano i contribuenti attraverso il bail-in a intervenire sulle attraverso l'intervento pubblico a intervenire sulle banche, c'è il rischio di una crisi sistemica. Mi scusi Codogno, ma al di là delle dichiarazioni formali, ma tutti si stanno orientando verso lasciare all'Italia la possibilità di un intervento pubblico? Cioè alla fine gira e rigira per non continuare a bruciare soldi in aumenti di capitale delle banche che poi vengono azzerati dal mercato, vedi Monte dei Paschi ma vedi anche Banco Popolare, tagliare la testa al toro significa autorizzare l'intervento pubblico magari sullo schema del TARP 2 che ci raccontava Luigi Zingales 2 giorni fa? Penso che a questo punto, almeno per il Monte Paschi, non ci siano altre alternative. Probabilmente altre banche hanno altre opzioni e quindi non necessariamente questo sarà necessario, ma penso che a questo punto un intervento diretto da parte del governo con iniezione di denaro fresco statale sia necessario. Mi scusi, ma per lei Monte Paschi tecnicamente è fallita? Ma la situazione è molto difficile, questo è ovvio. Bisognerà vedere a fine mese se passerà gli stress test e soprattutto se passerà lo stress test nello scenario di base. Quello sarà un punto molto importante, perché in base a quella valutazione si saprà se la banca è solvibile. Se la banca è solvibile, ovviamente si aprirà la strada a interventi da parte del governo italiano. Se non è solvibile, ovviamente bisognerà andare ad una risoluzione. Io penso che questa seconda strada sia improbabile in questo momento, cioè penso che la banca sia ancora solvibile e quindi meriti un intervento da parte del governo che ristabilisca comunque una situazione più tranquilla sui mercati, elimini e riduca fortemente il rischio sistemico, che in questo momento è la grande preoccupazione non solo in Italia ma anche in Europa. Allora, su questo sappiamo che il tema, lo dico a chi ne ascolta, sono le sofferenze bancarie, lo raccontiamo da mesi e anche da giorni, e quindi la parte di la Banca Centrale Europea ha chiesto al Monte dei Paschi nei prossimi 3 anni di ridurre i crediti non più esigibili di 10 miliardi nei prossimi 3 anni, che però è un montare molto grosso. Ora, altrimenti che cosa succede? Succede che tu devi continuare a fare aumenti di capitale perché il tuo patrimonio risulta essere troppo basso rispetto ai crediti che hai in sofferenza. Il tema è tutto a quanto li vendi questi crediti in sofferenza. Le banche mediamente li hanno, su ogni euro prestato li hanno in bilancio a 40 centesimi. I fondi speculativi puntano, i fondi avvoltoi, ad averli a molto meno, magari a 20 centesimi. Il problema è capire l'intervento statale pubblico a quanto dovrebbe posizionare il livello. Allora, per non essere aiuto di Stato, secondo lei Codogno, come dovrebbe funzionare questo intervento? Perché se tu li compri, se lo Stato li compra a un livello troppo alto rispetto a quello del mercato, la Commissione europea ti dice che sono aiuti di Stato. E quindi? Esattamente, se il prezzo è completamente fuori mercato, questo viene qualificato come aiuto di Stato e quindi viene molto difficile l'attuazione. Se invece l'acquisto è a prezzi di mercato, i prezzi di mercato sono molto depressi in questo momento perché siamo in una situazione dove non ci sono compratori, ovviamente. Quindi c'è la possibilità, come è stato fatto in passato, di adottare quello che viene chiamato un valore economico reale. Questo è un valore che viene stabilito da degli esperti in base a certi parametri e che meglio rispecchia quello che è l'attesa di recupero di questi crediti. È un valore che potrebbe essere considerato dalla Commissione come compatibile con la regolamentazione sugli aiuti di Stato. Se questo avviene, ovviamente il governo potrebbe, o direttamente, ma molto più probabilmente attraverso la Cassa Depositi o qualche altro veicolo, potrebbe acquistare questi non performing loans, queste sofferenze, diciamo. Sofferenze che a prezzi che sono più vicini a quelli di carico del. Per cui facciamo un esempio concreto, visto che le banche ce li hanno mediamente a 40 centesimi su ogni euro prestato. E ripeto, attenzione, non sono solo i soldi prestati agli amici degli amici, quelli sicuramente ci sono, ma sono soprattutto i soldi prestati alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti, alle medie imprese che sono fallite, che sono in difficoltà dopo 8 anni di crisi e non solo di crisi. Però dicevo, ce l'hanno in carico a 40 centesimi, i fondi avvoltoio vorrebbero portarli via, poniamo a 20 centesimi. Lei dice, se si fa una valutazione indipendente sul prezzo più realistico sulla base di questi asset così, e senza quindi dare il prezzo che vorrebbero i fondi avvoltoio, che chiaramente puntano a un prezzo anche più basso del reale, magari ci si avvicina, dico, a 35 centesimi, quindi più un valore di vicino a quello che ce l'ha in carico la banca, è distante da quello dei fondi avvoltoio, e questo stabilisce il prezzo per tutti a quel punto, Codogno. Cioè, se lo Stato entra. No, direi di no. È una valutazione che va fatta per singola banca. No, dico, ma su quel singolo prestito, no, mi sono espresso male io. Se lo Stato, se la CDP inizia a comprarli a 35 centesimi, ci si allinea tutti si allineano per quel tipo di sofferenza a 35 centesimi, poniamo. Beh, questo è da vedersi ovviamente, perché questo dipende da come si sviluppa il mercato. Quello che conta è che a questo prezzo di acquisto l'acquirente pubblico pensa di non perderci, per così dire, certo. e quindi potrebbe non essere un penalizzante per il contribuente, e allo stesso tempo questo consentirebbe alle banche di non registrare una perdita significativa che richiederebbe nuovo capitale. Questa è un po' la situazione. Devo dire che questo comunque è una valutazione di secondo livello. Il problema in questo momento è più immediato, quello dell'aumento del capitale immediato di alcuni operatori, in particolare il Monte Paschi, che sappiamo che hanno bisogno di capitale fresco immediatamente, e penso che il dibattito in questo momento si centri soprattutto sulla possibilità di farlo senza andare a fare alcun tipo di bail-in. Questo è almeno quello che vorrebbe il governo italiano, non necessariamente questo sarà quello che verrà approvato a Bruxelles. E adesso, appena arriveremo alla Ceretelli, sentiremo anche cosa ne pensa lei. A chi mi dice: ma perché le banche non possono fallire? Perché le banche non possono fallire, perché il rischio sistemico, brutto, bello, piace o non piaccia, voglio dire, un'impresa, molti mi scrivono: ma perché l'impresa X può fallire e invece la banca non può fallire? Perché è brutto dirlo, ma se l'impresa X fallisce, il danno è per i suoi dipendenti, per l'imprenditore, per i creditori, e lì si ferma. Se salta per aria una banca, il danno sistemico vuol dire che non solo è per tutti i correntisti, che sono decine di migliaia di quella banca, ma scatta l'ondata di panico su tutto il sistema. Ecco perché si chiama sistemico, ed ecco perché i conti correnti sono garantiti fino a 100.000 euro, ed ecco perché ci sono le autorità di vigilanza che si chiamano Banca d'Italia e Banca Centrale Europea, che invece un'impresa di altro genere non ha. Un'ultima domanda per lei, Codogno, però riguarda un punto toccato da Zingales. Adesso glielo faccio ascoltare, perché se ho ben capito, nel suggerire il TARP2, che era il metodo americano, lui dice: attenzione, va offerta questa possibilità di emettere azioni che poi lo Stato ricompra a tutti, perché se iniziamo a farlo un pezzo per pezzo, iniziamo intanto a dare un marchio a cui diamo l'aiuto, ma soprattutto il mercato può iniziare a speculare e dire: bene, dopo il Monte dei Paschi chi sarà? E tu vai sempre alla rincorsa. se si vuole tagliare il nodo, bisogna darlo a tutti. Sentiamo questo passaggio di Zingales. Se noi facessimo un bail-in su una società, su una banca italiana di importanti dimensioni, secondo me avremo facilmente un panico nel settore bancario, con delle conseguenze disastrose. Quello che secondo me è importante è capire come intervenire nel modo definitivo. Cioè, purtroppo io ho imparato dall'esperienza americana, dove sono stati fatti molti tentativi che sono andati a vuoto e hanno creato più panico di non fare niente. Perché quando lo Stato interviene, ma interviene male, evidenzia che ci sono dei problemi e non li risolve. Quindi o non fa nulla, o quando entra deve entrare con una forza talmente preponderante che mette tutto a tacere. Ma quindi lei per quale soluzione sarebbe a questo punto? La CDP che va a garantire? Io sarei una che soluzione garantire... di una specie di TARP all'italiana, nel cui la CDP interviene nelle banche con delle investimenti diretti, ma in azioni, chiamiamole preferred, cioè delle azioni che hanno un valore nominale e sono senior rispetto a tutte le altre azioni. Perché dico questo? Perché una delle caratteristiche dell'intervento deve essere che deve essere fatto velocemente, in maniera simile per tutte le imprese, d'altra parte tutte le banche. D'altra parte le banche sono in condizioni diverse. Quindi il mio intervento ha questo vantaggio, che se diciamo interveniamo sulla Banca Intesa, la Banca Intesa è solida, il Banca Intesa può fare un aumento di capitale, ricomprarsi le preferred al valore nominale, e gli azionisti di Banca Intesa non ci hanno perso una lira nell'operazione. Perché farlo su tutto? Non avrebbero più senso interventi mirati a quel punto? Perché è difficilissimo per lo Stato oggi decidere chi è sano e chi no, e il rischio di questo è che richieda un sacco di tempo e che poi quelli non sani vengano identificati come non sani, quindi abbiano una particolare corsa agli sportelli o problemi eccetera eccetera devastanti. Allora Codogno, le chiedo ancora un minuto di pazienza perché ho il traffico e poi vorrei sapere appunto se non avrebbe più senso un intervento complessivo su tutte le banche, dando a tutte le banche la possibilità poi di vedere quelle messe meglio se le comprano le azioni, le altre invece si fanno comprare, e poi magari anche una battuta, visto che lei sta a Londra, sulla situazione dei fondi immobiliari britannici. 349-238-6666 per sms e whatsapp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. A 7:49 minuti, mentre è ritornata, siamo riusciti ad avere collegamento anche Adriana Ceretelli. Allora, professor Lorenzo Codogno, la convince l'idea di un piano sistemico non solo mirato a alcune banche, in modo che non si parta a dire beh, dopo Monte dei Paschi sarà la Cassa dei Risparmi di Genova e poi chi altro? E poi vorrei anche un commento su quello che sta capitando ai fondi immobiliari invece in Gran Bretagna, prego. Sì, come linea di principio mi convince, in pratica lo vedo inattuabile, nel senso che se si dovesse arrivare a una soluzione di quel tipo lì, un aumento a tappeto dal 20-30% rispetto al capitale, alla capitalizzazione attuale di borsa di vari istituti, ci sarebbero istituti che si ritroverebbero con del capitale in aggiunta di cui non sanno che farsene, perché magari non ne hanno bisogno, e mentre altri istituti, come ad esempio il Paschi, che si ritroverebbe un aumento di capitale insufficiente comunque. Quindi dovrebbe essere molto, molto superiore, quindi si rischia di inondare il mercato di capitale che in alcuni casi può essere in eccesso, in altri casi insufficiente. Inoltre si tratterebbe di ammontari molto significativi e questo porterebbe ovviamente anche dei problemi di finanziamento e di valutazione dei conti pubblici. Mi sembra un'ipotesi che allo stato attuale delle cose non è sul tappeto, non è in discussione. La discussione si focalizza soprattutto sul Monte Paschi in questo momento, come risolvere la situazione, e poi più ampiamente sul sistema, come risolvere la situazione delle sofferenze. Le soluzioni sono molteplici, penso che il punto politico più delicato e più importante sia quale tipo di coinvolgimento degli attuali investitori, ovvero sia se ci sarà bail-in degli obbligazionisti. Una cosa va detta, i depositanti in ogni caso penso saranno tutelati, è molto improbabile che vengano toccati da qualsiasi tipo di possibile futura ristrutturazione, mentre ovviamente gli investitori in azioni delle banche verranno coinvolti in questa fase. Il punto interrogativo si gioca sul coinvolgimento degli obbligazionisti e soprattutto su quelli subordinati, perché l'anomalia italiana, e questo purtroppo è la cosa che più penalizza il sistema bancario italiano, è che molti titoli e obbligazioni subordinate sono state collocate nei portafogli di investitori delle famiglie. Questa è un po' un'anomalia a livello europeo. Ah beh, ed è il problema che ha coinvolto anche l'autorità di vigilanza, Banca Italia e quant'altro, ed è il problema che causò la grossa tensione su Popolare Etruria, Chieti, Ferrara e Marche. E in una battuta, i fondi immobiliari britannici, però, Codogno, perché ieri abbiamo visto tre fondi, anche grossi, uno dei quali particolarmente grosso, non rimborsare più i clienti. Ma è un problema sicuramente aperto. L'economia inglese, a seguito di Brexit, sta passando una fase di aggiustamento che prevede un cambio molto più debole. Probabilmente prevede un rallentamento significativo della crescita economica, e come parte di questo aggiustamento sicuramente ci sarà anche un aggiustamento nei prezzi delle abitazioni e quindi dei fondi immobiliari. È un passaggio necessario visto quello che è accaduto al referendum. Allora, nel ringraziare Lorenzo Codogno, chiedo invece alla mitica Adriana Ceretelli, uso la battuta di un ascoltatore: mentre i medici studiano, il paziente muore. Allora, Codogno è stato prima molto preoccupato, diciamo così, sul Monte dei Paschi, cioè ormai è inevitabile un intervento dello Stato, non si riesce a risollevare la banca in altro modo. Secondo te l'Europa sta valutando concretamente la non possibilità di avere un altro elemento sistemico, shock sistemico dopo la Brexit, Adriana? Allora, io condivido la battuta dell'ascoltatore al 100%. Il problema è che si sta discutendo, ma il rischio è che si arrivi troppo tardi, quando il famoso malato è già morto. Quindi l'Europa sta sicuramente valutando, insieme all'Italia, come uscirne, in che modo. Le soluzioni sono allo studio, ma quello che a me preoccupa è che l'accordo sulla soluzione rischi di arrivare troppo tardi. E non c'è dubbio però che si cerchi di venirne fuori prima del patatrac, perché sennò sarebbe un patatrac sistemico. Voglio dire, l'Italia non è la Grecia, è la terza economia dell'euro. Una crisi bancaria in Italia travolge l'intero sistema bancario europeo, non ci sono dubbi in proposito, quindi è interesse di tutti chiudere, e chiudere bene e al più presto, in modo credibile per i mercati. Secondo me stiamo perdendo troppo tempo, perché è chiaro che si cerca di arrivare ad un accordo nel rispetto delle regole, con un uso ragionevole della flessibilità, però siamo in una situazione di emergenza. Non si può, diciamo, tirare il fiato perché oggi il Monte dei Paschi è risalito, sì, ok, però sì, domani ma risalito cosa parzialmente farà? No, adesso vi do anche il dato, perché è impressionante vedere che cosa è successo. Le banche italiane in media hanno perso dal referendum inglese il 30% e il 50% l'ha perso il Monte dei Paschi. Da inizio anno le banche in media hanno perso il 57%, mentre nell'area euro meno 37%, meno 22%. Per quello che riguarda il dopo Brexit. Adriana, su questo abbiamo visto anche uno Schäuble più possibilista. Secondo te, chiaramente, quanto può pesare anche la situazione molto delicata e molto a rischio di Deutsche Bank e di altre banche europee per dire ok, liberiamo questo rischio di sistema dall'Italia, altrimenti ci arriva addosso? Ma sicuramente è questa la ragione per cui ci si mette intorno al tavolo a ragionare, contrariamente al solito. Diciamo, ci si mette più tempo di quanto secondo me sarebbe opportuno, certo. Ma si sta seriamente ragionando, perché come dicevo l'Italia può essere il detonatore di una crisi europea, perché c'è del marcio in quasi tutte le banche europee, naturalmente marci di tipo diverso, instabilità e opacità di tipo diverso, ma ci sono. E il mercato lo sa, ed è per questo che appunto appena è partita Brexit, è cominciato l'attacco all'anello più debole del sistema, ma tutto il sistema non è certamente in una situazione in grado di tenere a un attacco speculativo sulle banche. Abbiamo visto anche Deutsche Bank andare male. Deutsche Bank non ha sofferenze, ma derivati pari a 20 volte il PIL tedesco. Grazie intanto Adriana. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi, adesso commentiamo la borsa sulle banche, cosa vuol dire che pagano gli azionisti, i correntisti? Beh, vuol dire che dal 1 gennaio c'è in vigore in tutta l'area euro il bail-in, e quindi in caso di fallimento di una banca pagano gli azionisti, gli obbligazionisti di qualunque livello, non solo senior, junior, di qualunque livello, e poi anche, fosse necessario, anche i correntisti sopra i 100.000 euro. Chi mi chiede ma cosa vuol dire vietare le vendite allo scoperto, non possiamo spiegarla tutta, ma vuol dire vietare la possibilità di guadagnare scommettendo sul fatto che un titolo cali. Tu puoi scommettere sul fatto che il titolo cali, cosa fai? Compri allo scoperto se le azioni non le possiedi e le ricompri quando sono più basse, le possiedi veramente quando sono più basse, guadagni sulla differenza. In sostanza, in soldoni, la vendita allo scoperto è un sistema che ti permette di guadagnare scommettendo sul calo di un titolo, non solo quando un titolo sale. Ed è chiaro che va ad amplificare tutti i cali, per questo che si chiede in alcune situazioni viene fatto, di sospendere le vendite allo scoperto. Detto questo, andiamo sulla borsa, perché oggi, al di là delle banche che restano il tema di fondo, ci mancherebbe, il tema di borsa oggi è Telecom Italia, perché è vero che la Popolare Emilia Romagna ha perso 7,14, il Banco Popolare un altro 6,15, Pop Milano il 3,5, Unipol il 3,60, Generali il 3,5 e Unicredit il 3,30%. Intesa San Paolo invece è molto meglio, ha perso solo lo 0,20%, Monte dei Paschi più 6%, un recupero molto molto parziale, però Telecom ha perso quasi l'11%. Qui c'è notizia di mercato, non c'è speculazione, che riguarda la partecipazione in Telecom Italia dell'imprenditore francese Neil. Allora, ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Partiamo da Telecom. Sì, Neil aveva messo in piedi negli ultimi mesi un sistema di derivati che l'avrebbe portato a detenere di fatto una partecipazione del 15% in Telecom Italia, e lo stesso Neil invece proprio ieri ha annunciato il fatto che via via nelle prossime settimane smonterà questa posizione. Sicuramente è una partecipazione, corrisponde a una partecipazione importante, il mercato sta già iniziando a scontare il fatto che questo pacchetto via via sarà immesso sul mercato. Evidentemente la reazione del titolo è stata molto forte, soprattutto oggi. C'è poi un altro fattore sempre legato a Neil che oggi ha influito sul calo del titolo di Telecom Italia. Neil si candida a rilevare gli asset che dovranno essere dismessi nell'ambito della fusione tra Tre e Wind in tutta Europa, e sostanzialmente così si creerà un altro operatore che farà concorrenza a Telecom Italia, quindi questo è un altro fattore che appunto ha pesato sulle quotazioni del titolo. Altri criticano il fatto che la Banca Centrale Europea abbia reso pubblica la lettera in cui ha chiesto al Monte dei Paschi di ridurre le sofferenze di 10 miliardi in 3 anni. Sì, devo dire che tanto, però attenzione, il problema delle sofferenze resta in Italia anche al di là della lettera della Banca Centrale Europea, cioè qui o lo risolvi o se no qualunque aumento di capitale, vedi il Banco Popolare, vedi il Monte dei Paschi, viene bruciato dai cali di borsa, e quindi la banca si ritrova sotto patrimonializzata, deve fare altrimenti capitale, ed è un gioco senza un gioco, ed è una tragedia senza fine, non è un gioco. Per cui o liberi le banche dalle sofferenze bancarie e gliele fai vendere non a prezzi diciamo di strassaldo come vorrebbero i fondi avvoltoio, e quindi permette alle banche poi di prestare soldi anche alle imprese e alle famiglie, o se no tanto non ne usciamo. Questo ormai è chiaro a tutti, adesso non sto dicendo una grande cosa, è quasi una banalità. Quello che non è una banalità sono i tempi, perché i tempi, come nelle malattie, come l'esempio di prima, i medici studiano, il paziente sta morendo, i tempi come medicina, anche in operazioni finanziarie che riguardano il mondo bancario, sono fondamentali. Andiamo avanti però con gli altri temi, oltre a Telecom e le popolari, c'è un motivo sulle popolari? Ma insomma direi di no, oggi viene giù tutto il settore bancario, in più c'è anche questo report di Morgan Stanley, che è stato un report abbastanza discusso oggi, è stata anche una diatriba con il Banco Popolare. Secondo Morgan Stanley, in vista degli stress test dell'EBA di fine luglio, il Banco Popolare avrebbe addirittura bisogno di un nuovo apporto di capitale. Il Banco Popolare ha smentito, anche perché lo ha appena fatto, però tutto sommato anche questa posizione di Morgan Stanley sulle banche italiane ha contribuito ad alimentare le vendite sul settore. Ancora tra i titoli oggi, come va Rizzoli Corriere della Sera? Ha chiuso a più 0,7%, c'è grande attesa per venerdì, anche perché sostanzialmente le due cordate che si stanno tra virgolette sfidando per rilevare il controllo del gruppo editoriale dovranno fare un rilancio al buio, cioè senza sapere quella che è l'offerta del rivale, cosa che invece è successa fino ad oggi. Dovranno fare un ultimo rilancio per la propria offerta per conquistare il controllo della società, e chiaramente il titolo risente di questa febbre, di questa attesa, e nonostante la borsa stia scendendo, oggi ha toccato un nuovo massimo a 0,83 euro. Allora, complessivamente l'indice ha perso il 2,26%, Parigi l'1,90%, Francoforte l'1,70%, Londra l'1,25%, il Dow Jones in questo momento invece è invariato tra i migliori e i peggiori. Il migliore appunto è, oltre a Montepaschi, Enertronica più 6%, Bayer più 5,30%, Biancamano più 4,20%, il Sole 24 Ore più 4%. Tra i peggiori investimenti, anzi i peggiori investimenti e sviluppo, meno 21%, Zucchi meno 15%, Bastoggi meno 12, Creto Valtellinese meno 12,30%. Grazie a Cio Condi nella Radio Corriere Sole 24 Ore. Dopo il traffico parliamo di Expo e dell'inchiesta, ahimè, della magistratura, gli arresti, mafia, appalti a Milano. Arriveremo a fare solo un accenno, ve lo dico, al tema del TTIP, lo riprenderemo domani perché è un tema molto delicato, gli accordi commerciali che si sta tentando di realizzare con moltissimi attriti e difficoltà tra Europa e Stati Uniti, Europa e Canada. Comunque, ora c'è il traffico, 349-238-6666, resta il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing, Georgia. In questo caso che l'ente, in questo caso la società dell'ente Fiera, sia soggetto esterno, estraneo, terzo rispetto a indizi che potevano coinvolgere a livello di reato. È un'operazione molto importante perché ancora una volta dimostra la stretta interconnessione che ormai esiste tra la criminalità, le organizzazioni criminali e la criminalità economica. Allora, abbiamo sentito in rapida sequenza l'intervento del PM Ilda Boccassini, che ha chiarito che non c'è nessun rilievo, nessuna responsabilità penale in capo a Ente Fiera o a Expo per gli arresti effettuati oggi sulle infiltrazioni pesantissime della mafia, non dell'andrangheta questa volta, della mafia nella costruzione di alcuni padiglioni dell'Expo di Milano. E pochi istanti dopo avete sentito invece il procuratore capo Francesco Greco, che ha detto insomma un'operazione importante perché nonostante tutto svela la capacità di penetrazione della mafia e di una cosca vicina al boss super latitante, perché insomma è anche forse protetto, perché a noi risulta che continui a vivere tranquillamente tra le parti di Trapani, forse se ci sbagliamo, Matteo Messina Denaro. Allora, la nostra Raffaella Calandra ha seguito questa mattina anche la conferenza stampa e la presentazione degli atti. Ricordiamolo, 11 persone arrestate e 11 milioni in contanti sequestrati. Sulla base di quali accuse e perché cosa? Allora, l'accusa è in sostanza quella di aver lasciato infiltrare una società, soprattutto un consorzio, la Dominus, nei lavori, come dicevi, di allestimento di alcuni stand, quattro in particolare, attraverso il cavallo di Troia di una serie di reati economici. E questo è l'aspetto soprattutto che il procuratore Greco sottolinea, cioè le classiche evasioni fiscali, riciclaggio, cioè reati economici, i più tradizionali, società cartiere, prestanomi, che finiscono con l'essere il punto di ingresso per le infiltrazioni mafiose. Si tratta di un gruppo di persone, il punto di riferimento soprattutto è questo Giuseppe Nastasi, originario di Castelvetrano, stesso luogo di origine di Matteo Messina Denaro, appunto, che di fatto hanno fatturato 18 milioni lavorando 3 anni con una società controllata al 100% dalla Fiera, la Nolo Stand. E tutti questi soldi, moltissimi dei quali appunto ottenuti in nero, li trasportavano poi in Sicilia, anche qui anche in un modo diciamo anche abbastanza artigianale, diciamo, di nascondere i soldi in nero, a volte nascosti anche dentro un canotto, un'altra volta invece nascosti all'interno di buste di plastica, come ha raccontato di fatto in tempo reale un avvocato che poi è stato arrestato, un avvocato di Caltanissetta, l'avvocato Tipo, che è stato fermato proprio perché aveva in queste buste di plastica circa 300.000 euro in nero. Sentiamo questa intercettazione. Mi hanno proprio seguito in autostrada, mi hanno bloccato, ora sono dietro loro. Quando poi hanno visto che c'erano questi soldi, adesso sono dei soldi miei, di un onorario. Di un onorario, e vabbè, nelle buste di plastica, tutto regolare secondo l'avvocato. Allora, qui ci sono altri aspetti, perché il commissariamento di Nolo Stand, società del gruppo Fiera Milano, chiesto e ottenuto dalla procura come misura preventiva, dice Ilda Boccassini, che è coordinatore della divisione di distretto antimafia milanese, è un messaggio che viene lanciato, che lanciamo ai grossi gruppi, alle multinazionali, per dire: guardate che con i vostri comportamenti colposi state consentendo infiltrazioni di associazioni mafiose. E c'è anche un'accusa ancora più dura del GIP, Maria Cristina Manocci, che dice: attenzione, che il meccanismo che è emerso dalle indagini è stato reso possibile da amministratori di aziende di non piccole dimensioni, consulenti, notai e commercialisti, che in sostanza non hanno voluto vedere quello che accadeva intorno a loro. Questo è un po' il leitmotiv di tutti gli atti di oggi. Ho letto sia l'ordinanza del giudice Manocci, sia il decreto con cui è stato disposto il commissariamento, sia anche il decreto di sequestro. Cioè questa censurabile sottovalutazione, per dirla con le parole del GIP, da parte degli imprenditori milanesi davanti a evidenti anomalie di questa vicenda, come ad esempio il fatto di aver stipulato contratti con gente che formalmente non aveva incarichi all'interno di queste società. Questo è un tema su cui i magistrati milanesi puntano da molto tempo, cioè anche laddove non ci sono, come in questo caso, dei rilievi penali, esiste però una disattenzione, per usare una parola buona, diciamo un eufemismo, nei confronti di situazioni che sono anomale e che poi finiscono con l'essere, come in questo caso, il varco d'accesso per infiltrazioni anche mafiose. Insomma, un richiamo ad una attenzione maggiore, e questo nonostante i codici etici, nonostante l'autorità anticorruzione di Cantone, che più volte viene citata anche nelle intercettazioni, dicono infatti: è arrivato Cantone, li ha messi tutti in fila, dicono gli indagati tra di loro. Ma questo evidentemente non è ancora bastato, perché all'inizio, come ricordavi, serve soprattutto un'attenzione diversa, un occhio diverso da parte degli stessi imprenditori. Ecco, vorrei chiudere su questo, perché vedo già molte polemiche o domande o dubbi: ma Cantone, dov'era Cantone? Allora, io non ho gli elementi per dire che cosa potesse o non potesse fare Cantone, però posso dire con un po' di grano salis che immaginare che Cantone possa controllare qualunque cosa o potesse controllare qualunque cosa a fronte di comportamenti illeciti di stimati professionisti e imprenditori, insomma, diventa più una fatica di Sisifo che un controllo. Però insomma, il ruolo di Cantone obiettivamente è inutile girarci attorno. Domani lo troveremo sui giornali e molti ascoltatori fanno notare: ma come, l'Expo avevamo avuto le garanzie grazie alla struttura anticorruzione di Cantone. il modello trasparenza appunto di Expo, il modello di Cantone, che stando alle intercettazioni in realtà gli stessi indagati vedono come il fumo negli occhi, cioè l'arrivo di Cantone cambia in qualche modo l'operatività, diciamo, e infatti si preoccupano nel momento in cui devono verificare e accertare che tutto prosegua come era stato fino ad allora. Però è anche vero che gli atti amministrativi, quindi certificati antimafia, tutte le verifiche della prefettura, non sono bastate ad evitare queste infiltrazioni. Ancora una volta, quindi, l'elemento della responsabilità, che non è penale, ma se vogliamo dire è di, forse in un certo senso anche morale, ma non è questo il termine, diciamo, che da usare a proposito di aziende, sta nella volontà anche da parte di alcune realtà imprenditoriali di voler verificare fino in fondo con quali persone stanno avendo a che fare, insomma. E vedremo che sviluppi vi saranno. Ho visto che oggi anche il governatore della regione Lombardia Maroni ha detto, beh, adesso visto che viene coinvolta anche la fiera, ripeto, attenzione però alle parole in questi casi, perché la Boccassini l'abbiamo ascoltata, e ha detto non sono individuate responsabilità penali in capo a ente fiera o a Expo, altrimenti gli arresti avrebbero riguardato anche alcuni esponenti di Expo. Il sindaco Sala di Milano, ex numero uno di Expo, dice: la battaglia per la legalità non deve fermarsi mai. Vabbè, questo mi sembra. E forse, scusate, Bassano, un'ultima aggiunta: la maggiore verifica del non coinvolgimento né dell'ente fiera né tantomeno di Expo è il fatto che nessuna, oltre al fatto che non ci sono arresti, le società non sono indagate per la famosa legge 231 sulla responsabilità amministrativa, altrimenti ci sarebbe stato questo tipo di iscrizione. Allora, nel ringraziare Raffaella Calandra, devo dare in chiusura ancora, ripeto, domani parleremo del TTIP e delle trattative. Due notizie che invece riguardano ancora le banche e anche, pensate un po', le vendite allo scoperto. Allora, si è svegliata la Consob, che adesso ha vietato le vendite allo scoperto per 3 mesi, quindi non sarà possibile speculare in borsa e scommettere in borsa sul calo del titolo Monte dei Paschi. Il divieto sarà in vigore da domani, 7 luglio, fino al 5 ottobre, e si applica anche a derivati e market maker. E poi, sempre la Consob analizzerà con attenzione il report contenente le previsioni di Morgan Stanley sui risultati degli stress test per le banche italiane, duramente contestato dal Banco Popolare, e questo report oggi ha contribuito a far vendere proprio i titoli delle banche popolari italiane. Io sui report sapete come la penso. Chi li emette deve prima dichiarare quante azioni ha o ha venduto o ha comprato del titolo che va a giudicare, perché sennò è troppo facile. Abbiamo visto nel passato che una banca d'affari può emettere un report negativo e poi andare a comprare a ribasso, può emettere un report positivo perché va a vendere. È successo nel passato. Per cui, detto questo, la Consob analizzerà il report della Morgan Stanley, duramente contestato dal Banco Popolare, perché gli analisti della banca americana stimano che il CET1, praticamente il criterio patrimoniale più importante del Banco Popolare, scivoli sotto zero in presenza di uno scenario avverso, mentre quello di Monte dei Paschi verrebbe azzerato. Viene però escluso un nuovo aumento di capitale per la banca veronese grazie ai benefici dell'aumento di capitale già effettuato da 1 miliardo e alla fusione con la Popolare di Milano. Però il problema è che se tu non intervieni a livello sistemico, come chiudiamo dove siamo partiti, le praterie per la speculazione restano ancora tutte da esplorare. Ho capito che è bloccato l'evento allo scoperto, ma insomma. Comunque, intanto buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.